ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Mattino. Molte aziende stanno provvedendo a manutenzione straordinaria degli impianti, stanno facendo manutenzione straordinaria, insomma si stanno preparando alla ripartenza che ci sarà. E l'amministrazione pubblica che cosa fa? Invece niente. Siccome adesso si andrà quasi certamente contro un blocco notturno della circolazione, anziché programmare il rifacimento delle strade, la pulizia degli ambienti pubblici, la manutenzione straordinaria del verde standard sul bordo strada, che quando ci sono poi le intemperie causa un sacco di danni, pulizia dei corsi d'acqua, cosa fa? Niente, si erogano stipendi a babbo morto. Non sarebbe ora di parlare, dopo mesi di crisi economica, di parlare di quei settori che non hanno perso un euro da questa situazione? Non sarebbe ora di chiedergli a loro un bel contributo di solidarietà? Buongiorno Simone, ma dei BTP Futura che verranno emessi nella prima metà di novembre per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, con tassi che variano dall'1 al 3%, ottennali, ma ne vogliamo parlare? Ma sì, ci sono un po' di cose oggi sui giornali, esattamente sul BTP Futura. Invece sugli altri due fronti, immagino che l'ascoltatore, quando parla di contributo di solidarietà, si riferisca esattamente alla pubblica amministrazione. Sul fronte della manutenzione, ricordo di aver letto degli articoli che raccontavano esattamente che, per esempio, Atene, nel periodo del lockdown, e la Grecia ha fatto un lockdown durissimo, più duro del nostro, almeno in quella parte del paese, nella sua capitale, ha approfittato di quel periodo esattamente per rifare le strade. E sì, è un buono spunto. Tra un attimo arriviamo al tema della pubblica amministrazione. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti, è mercoledì 21 ottobre. E i titoli dei quotidiani sono ovviamente dedicati in gran parte al virus. Si allarga il coprifuoco antivirus, stando al Corriere della Sera, il quale ci informa anche, come dicevamo prima, che Salvini ha visto Fontana e ha congelato la firma dell'ordinanza lombarda. La Repubblica, virus, l'Italia sta chiudendo, Speranza dice restate a casa. Il Messaggero, virus, carta bianca alle regioni, la svolta del governo sul coprifuoco antimovida, potere ai governatori. La Stampa si dedica al Piemonte, il Piemonte dimezza lo shopping per il blocco il sabato e la domenica. Campania d'allarme, il titolo del Manifesto. Chiusure a raffica, ma arriva il vaccino, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Il Giornale, brancolano nel buio. Dopo la Lombardia, il coprifuoco e limitazioni anche in Campania e Piemonte. La linea soft di Conte già scricchiola. E qua è l'ipotesi dell'arrivo di un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel fine settimana. Sarebbe il terzo di fila. Milano doveva andare in lockdown venerdì, è il titolo del Fatto Quotidiano, che pubblica uno studio riservato, l'allarme inascoltato del CTS della Regione Lombardia. Vaccino pronto a dicembre, il titolo di Libero, che cita così le parole di Conte. Il coprifuoco copre solo i ritardi, è il titolo della Verità. Il Sole 24 Ore si dedica invece ai conti correnti. Sui conti correnti l'equivalente del PIL. Secondo l'analisi dell'ABI, a settembre depositi record. A bloccare la liquidità in banca sono i timori del Covid e lo stop dei pagamenti. Sole 24 Ore che intervista anche il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, che sarà anche nostro ospite alle 8:45. Subito Industria 4.0, proroga del super bonus con i fondi europei, dice Gualtieri. Infine Avvenire, prove di lockdown da Milano a Napoli. E ci siamo, iniziamo proprio dalla pubblica amministrazione e proprio ancora una volta da Lorenzo De Cicco, ancora una volta dalle pagine della cronaca di Roma del Messaggero, ancora una volta dalle vicende incredibili del Campidoglio. Siamo a pagina 38 del Messaggero e il titolo dice già molto: appena appalti per incollare etichette, l'ultima beffa del Campidoglio. Cosa è successo che al Comune di Roma urgono incollatori di etichette e addetti allo smistamento delle penne Biro? Gli uffici dell'amministrazione capitolina, scusate, sorrido, pur sapendo che sono soldi nostri, di tutti i cittadini italiani e dei romani in particolare, però è talmente pazzesca la cosa. Negli uffici dell'amministrazione capitolina, dove lavorano non sempre con lena stacanoviana 23.541 dipendenti, a quanto pare mancano impiegati qualificati per l'applicazione di etichette sui documenti oppure per la distribuzione del materiale di cancelleria. Impossibile trovarli tra quelli che già avevano un contratto a tempo indeterminato col Campidoglio. Di conseguenza, davanti al pericolo che l'impiegato addetto alla pratica, oltre a compilarla, debba perfino sottoporsi al sacrificio di apporvi sopra una strisciolina di carta adesiva, il Campidoglio ha deciso di non tentare l'azzardo e ha ritenuto indispensabile quindi arruolare un drappello di operatori privati per svolgere il gravoso incarico. Naturalmente ben ricompensato con i soldi dei contribuenti. L'amministrazione comunale il 12 ottobre ha stanziato oltre 500.000 di euro per ingaggiare gli irrinunciabili incollatori di etichette, i portatori di stilo e carte bollate, i distributori di numeretti a chi è in coda agli sportelli dell'ufficio municipale. Di cosa dovranno occuparsi? Nel bando è scritto questo: consegna copie di atti, sistemazione di documenti, distribuzione di moduli di materiale di cancelleria, penne e blocchi, e appunto l'applicazione di etichette su documenti a fini inventariali. Altri ancora saranno indaffarati nello smistamento della corrispondenza. Qualcuno dovrà tenere d'occhio il videocitofono. Vabbè, non so che dire. E c'è chi si piazzerà davanti agli sportelli con i cittadini in coda con l'incombenza di distribuire la numerazione d'accesso. Sarà assunto per consegnare tagliandini alle persone in fila. Ma perché si è reso necessario questo fondamentale bando da 500.000 di euro? Perché? Perché? La relazione tecnica dice questo: il Campidoglio è carente di personale di categoria B qualificato allo svolgimento della funzione. Succede, si legge nelle carte comunali, perché una delibera del 2008 ha previsto la riqualificazione dei dipendenti di categoria B, gli unici a quanto pare che erano in grado di svolgere tali servizi. E dunque, dato che non c'è il personale di categoria B a incollare le etichette, spendiamo 500.000 di euro e ci mettiamo. E ci mettiamo la ditta esterna, i lavoratori esterni, con un appalto da 500.000 di euro. E va bene, e va bene. Cioè, no, non va bene per niente. Comunque, visto che siamo sulla pubblica amministrazione, andiamo a pagina 6 della Stampa, con Paolo Baroni ci segnala. Paolo Baroni ha raccolto un po' di umori da parte delle imprese, un po' di preoccupazione per questo incremento dello smart working nella pubblica amministrazione. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche qua a 24 mattino ce ne siamo lungamente occupati, abbiamo dedicato una puntata. Parte Paolo Baroni citando le parole del presidente dei costruttori Gabriele Buglia, che ha definito un danno per il suo settore lo smart working introdotto nella pubblica amministrazione, e ieri dal palco dell'Assemblea Nazionale dell'ANCE è tornato a criticare la scelta del governo. Il lockdown, dice, ha dato il colpo di grazia a una pubblica amministrazione largamente inefficiente, talmente devastata dalle scelte di questi anni che per un dipendente pubblico è più facile non fare che fare. Quindi, come vedete qua, apparentemente almeno, non è che se la prenda con i dipendenti pubblici Buglia, il presidente dell'ANCE, dice che proprio non ci sono le condizioni e gli strumenti in certi casi. Perché non è stato completato il processo di digitalizzazione? Senza un percorso di formazione adeguato, senza una gestione coordinata e competenze specifiche, si rischia di trasformarsi lo smart working in un no working. Preoccupazioni che echeggiano anche, per esempio, nelle parole del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi. Il precedente del lockdown ci fa essere pessimisti, ma se a marzo il lockdown aveva preso tutti di sorpresa, oggi, sinceramente, mi aspetterei qualcosa di meglio. Questo è quello che ci ha assicurato anche a questi microfoni la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Vedremo se veramente le cose miglioreranno. Parliamo d'altro e veniamo a una vicenda preoccupante. Ed è il racconto che troviamo sulla Stampa a firma di Gabriele De Stefani, che ci racconta di una nuova app che circola su Telegram è un bot, ossia un sistema automatico per il quale di fatto tu carichi una foto e te ne viene restituita un'altra. Che tipo di foto ti viene restituita? La foto della stessa persona che hai messo, ma nuda. Funziona così, grazie chiaramente a un algoritmo che è in grado di immaginare, no? E di ipotizzare come potrebbe essere questa persona senza vestiti. Cosa succede? Che il software è stato inventato in Russia e qui il social network più diffuso, VK, conta quasi 400 pagine nelle quali se ne parla. E qui si trovano i 2/3 degli utenti che su Telegram condividono le esperienze e il materiale. Chat di gruppo ad accesso limitato per scambiarsi pareri e scatti, votare le foto più belle, sfidarsi in gare nelle quali chi incassa il maggior numero di like all'immagine inserita vince la possibilità di usare gratis la versione a pagamento del software. In questo software, da quando è nato, nel luglio del 2019, sono entrate le immagini di 100.000 ragazze di tutto il mondo, tra cui anche italiane. Agli utenti basta farsi un giro su qualunque social network, avere il desiderio di spogliare la prima donna che trova e fare un paio di click. Nel mirino quindi le star del mondo dello spettacolo, ma anche tante persone comuni e persino foto rubate dai profili Facebook, con il rischio, tra l'altro, oltre alla diffusione di queste immagini false, che si passi al ricatto. Se non vuoi che la tua foto nuda vada in giro, devi pagare, tanto nessuno può sapere che è falsa. A scoprirlo, due giovani originari di Crema, Giorgio Patrini e Francesco Cavalli, che hanno una società che si occupa esattamente di sicurezza informatica. Un'indagine che è durata 8 mesi, tutto consegnato all'FBI e alla polizia olandese, che adesso stanno cercando di tornare a capo, di venire a capo della vicenda. Oh, a proposito, ma no, questa ce la teniamo per la fine, questa ce la teniamo per la fine. A proposito di errori che si possono fare durante una conferenza, una videoconferenza, una video chat, che possono persino costare il posto di lavoro, ce la teniamo per la fine. Una pausa. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Buongiorno Spezia, ma non si potrebbe intervistare un esperto in statistiche per capire se la percentuale di positivi sulla percentuale di tamponi eseguiti possa essere riportato a livello nazionale, locale, regionale, insomma, di capire quanti positivi potrebbero essere in Italia con uno scarto statistico, quanti sono ricoverati in ospedale. Così si potrà avere un'idea della gravità del virus. La scuola ha ovviamente gli asintomatici come ovunque, e se non si fanno i test rapidi gli asintomatici portano l'infezione a casa. Non credo che sia particolarmente complicato da capire, o sbaglio? Può essere anche. La realtà è che il sistema di controllo che avviene nella scuola è piuttosto stretto, a dire il vero, nel senso che appena un ragazzo non sta bene resta a casa, poi se risulta positivo va in quarantena, in isolamento tutta la classe. Non so cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare. Vogliamo lasciarli a casa di nuovo? Io penso di no, io penso non si debba fare, in tutta sincerità. Poi se... parliamoci chiaro, se la situazione dovesse diventare drammatica e si rendesse necessario, chiaramente, però sarà un nuovo lockdown quello, che è una cosa diversa. Sulla questione delle statistiche, guardi, io non so che dirle, perché ormai sono 6 mesi che ci occupiamo giornalisticamente di questa vicenda e ho imparato a fidarmi solamente dei numeri, non delle approssimazioni statistiche, o molto poco delle approssimazioni statistiche, anche se oggi avremo anche ospite Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe e magari un punto su questo potremo farlo, però molto poco delle approssimazioni statistiche e molto invece dei numeri reali. E lo ripeto, per me i numeri reali sono i ricoveri in ospedale e i ricoveri in terapia intensiva, perché danno la misura di quando l'emergenza sanitaria può diventare pesante. E questo è. Oh, un ascoltatore invece via WhatsApp ha scritto e mi ha ricordato, a proposito dei dipendenti pubblici romani, quell'appalto per fare, per incollare le etichette, l'appalto a mezzo milione di euro per incollare le etichette, mi ha ricordato un mitologico pezzo di Fantozzi che era questo. Fantozzi fu assunto nella megaditta con la qualifica di spugnetta per francobolli. La spugnetta per francobolli, e l'immagine è Paolo Villaggio con la testa appoggiata sulla scrivania, sul bancone, e il collega di ufficio che gli passa il francobollo sulla lingua. Spugnetta per francobolli, manca solo quello in Campidoglio. Va bene, passiamo a cose serie che sono appunto la questione dei contagi. Oggi il Fatto Quotidiano, a pagina 4, ci illustra quello che succede. Intanto vi dico che se volete una sensazione, e nessuno di noi la vuole, però se volete la sensazione, l'idea che il clima è parzialmente tornato a quello che era a marzo-aprile, ebbene prendetevi il giornale e il Fatto Quotidiano, metteteli a confronto e avrete un quadro di come la si vede, per esempio, su quello che ha fatto o non ha fatto la Lombardia. Il Fatto Quotidiano ci parla di un documento riservato, del quale appunto il Fatto Quotidiano è riuscito a entrare in possesso, nel quale si racconta che Milano era da lockdown già venerdì, con 15.000 casi alla settimana e chiusura totale, diceva questo rapporto del Comitato Tecnico Scientifico Lombardo. Cita il Fatto Quotidiano le frasi di Fabrizio Pregliasco, il virologo dell'Università di Milano, che dice: credo che non sia sufficiente la richiesta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Ne avevamo parlato nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Lombardia venerdì scorso e avevamo già fatto presente al presidente Fontana questa urgenza. Dunque, che cosa dice questo rapporto? Dice esattamente questo, che non si sa innanzitutto in una grossa metropoli come Milano la velocità con la quale il fenomeno si può verificare, perché è una metropoli da 3 milioni di abitanti, e dunque quello che bisogna fare, secondo questo rapporto, è prendere delle misure forti. L'idea è esattamente quella: se si verifica lo scenario 4, quello rosso per intenderci, con numeri vicini ai 15.000 casi settimanali, l'opzione scritta nero su bianco è lockdown. E su questo il CTS già nella riunione di venerdì avrebbe puntato forte, sottolineando come la Lombardia fosse, con i suoi oltre 13.700 nuovi casi maturati la scorsa settimana, appunto in uno scenario da lockdown. Lombardia da chiudere dunque, anche se, come potrete leggere su molte pagine di quotidiani, ieri anche l'ipotesi di del coprifuoco dalle 23 alle 5 è passata in secondo piano. Perché è passata in secondo piano? Perché il leader della Lega, il partito che esprime il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non è d'accordo con questo coprifuoco notturno. Dice: ci voglio vedere più chiaro. Ebbene, ci vuole vedere più chiaro, e dunque il provvedimento, che aveva già l'ok del ministro Speranza, è fermo. E però da alcuni rapporti vediamo che forse sarebbero necessarie misure ancora più dure. Cosa ancora sul Covid? Innanzitutto, non andiamo solo sulle cose tristi, andiamo anche sulle cose un po' più confortanti. Perché se il tema è il riempimento delle terapie intensive, il tema è anche quanto dura, quanto le persone stanno all'interno delle terapie intensive. Ci può aiutare in parte il pezzo di Michele Bocci sulla Repubblica. Siamo a pagina 7. più giovani e meno gravi i nuovi malati in rianimazione. L'identikit dei pazienti nella seconda ondata. Nelle tacche i polmoni sono colpiti come a marzo, ma le persone sono più sane e la mortalità è più bassa. Racconta in questo, in questo lungo pezzo Michele Bocci, che occupa un'intera pagina, che appunto... Cosa succede? L'effetto di tutto questo, il fatto che siano più giovani e meno gravi, provoca anche il fatto che rimangano meno all'interno, meno tempo mediamente all'interno delle terapie intensive. E questo chiaramente è un buon segnale, cioè fa ben sperare per le possibilità di contenere dal punto di vista sanitario il virus. Vi vorrei segnalare ancora cosa direi il... Commissario Arcuri, l'uomo degli approvvigionamenti da Covid-19, lunga intervista con Federico Fubini sul Corriere della Sera a pagina 9, nella quale ricorda anche questo, che l'età media dei contagiati oggi è di 40 anni, eravamo secondi al mondo per contagiati all'epicentro dell'Europa, oggi siamo sedicesimi dietro diversi paesi europei, ma non possiamo abbassare la guardia. Se la prende Arcuri con le spiagge, gli assembramenti serali nelle piazze in estate. Però c'è sempre il tema delle terapie intensive che... il cui raddoppio non è ancora arrivato. Dice Arcuri, sui tamponi facciamo ormai stabilmente oltre 100.000 tamponi molecolari al giorno, l'obiettivo è di raddoppiarli nel giro di 2 mesi per avere un maggior controllo sulla pandemia. Infine, sempre sulla pandemia, c'è da segnalare la Svizzera, la Svizzera che sembrava un posto piuttosto tranquillo su questo fronte, ebbene no, ci racconta il Messaggero a pagina 9, c'è un boom di positivi, oltre 1.000 infezioni ogni 100.000 abitanti, scattano misure straordinarie per contenere l'epidemia e diventano più complicati gli spostamenti dei nostri 123.000 connazionali che lavorano in Ticino. Traffico. Sì, lo so che al momento in Svizzera sono piuttosto liberi, non abbiamo detto che ci sono delle misure adesso, però si stanno valutando nuove misure perché il numero dei contagi preoccupa, è semplicemente questo. Ripeto, non è che stiamo facendo terrorismo, stiamo raccontando quello che succede. Se si riempiono le terapie, guarda, la spiego semplice, se si riempiono le terapie intensive per malati, dico, anche se non credete, io non riesco a capire come facciate, però anche se non credete nel fatto che il Covid-19, SARS-CoV-2 sia una malattia pericolosa, va bene, io su questo non posso farci niente perché non posso convincervi, se avete quest'idea. Sappiate che le persone che si ammalano gravemente, che vabbè per voi sono una ristretta minoranza e può darsi anche, che si ammalano gravemente di questa malattia, finiscono in terapia intensiva, le terapie intensive si intasano e chi si ritrova con altri problemi rischia di non ricevere le cure adeguate, quindi... Tenete presente che è una preoccupazione sanitaria. Tenete presente la preoccupazione sanitaria se non credete alla preoccupazione sul virus in se stesso. La giustizia, ce ne siamo occupati tantissimo nei giorni scorsi. Oggi anche qua, se volete, due fronti opposti sulla vicenda di Piercamillo Davigo, che per curiosamente esplode un po' a scoppio ritardato oggi sui giornali. Ebbene, c'è una pagina di Luciano Capone, un pezzo di Luciano Capone sul Foglio in apertura, che prende un po' in giro tutti quelli che definisce i manettari che si stracciano le vesti per il fatto che Piercamillo Davigo è fuori dal CSM per raggiunti limiti di età, perché non è più un magistrato, va in pensione e quindi il plenum del CSM ha deciso che non sarà più nemmeno membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Dall'altra parte Giancarlo Caselli, ex magistrato, anche lui in pensione, il quale sul Fatto Quotidiano firma un pezzo a pagina 13. Non scordiamoci tanti meriti di Davigo, si sofferma soprattutto Caselli appunto sui su Mani Pulite, sul ruolo che ha avuto il cosiddetto dottor Sottile del pool Mani Pulite. Questo è tutti, racconta tu, quelli che definisce tutti i meriti che gli vanno riconosciuti anche in questo momento difficile, che per qualcuno potrebbe costituire una rivincita. Il Sole 24 Ore intervista, come vi dicevo, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, lo fa Gianni Trovati, poi Gualtieri sarà nostro ospite anche alle 8:45, scusate, Gianni Trovati, che si sofferma su molti punti col ministro. L'intervista è lunga, occupa un'intera pagina, la pagina 3 del Sole 24 Ore. Gualtieri fa sapere che si riparte subito da gennaio con Industria 4.0, gli incentivi appunto, e se riusciamo a frenare il Covid il PIL sarà meglio delle stime. Ovviamente c'è ampio spazio in questa intervista a Gualtieri anche, anche per il tema del MES. Sul MES chiede Trovati, conferma il giudizio del Premier, secondo il quale l'attivazione del salvastati potrebbe comportare aumenti di tasse o tagli di spesa per contenere il deficit ed esporrebbe l'Italia ad un effetto stigma. Conte ha ragione nel ricordare che che lo strumento di supporto non offre sovvenzioni ma prestiti, che a differenza dei grants impattano sul livello del deficit e del debito perché vanno restituiti. Così inizia la risposta di Gualtieri, che poi si completa appunto ed è piuttosto lunga. Dunque, se volete avere un'idea anche sulla manovra e sulle prossime mosse del governo, c'è l'intervista di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore a pagina 3 al ministro Roberto Gualtieri. Come ormai sapete, io ho una passione smodata per questa vicenda del Vaticano. La vicenda del Vaticano che si arricchisce di un altro personaggio, che però è un personaggio noto, già condannata per il processo, nel processo Vatilix, riemerge Francesca Immacolata Sciauchi e si collega alla vicenda del cardinale Becciu. Lo racconta Gianluigi Nuzzi sulla Stampa, pagina 13. L'unica cosa che può nuocerti davvero la tengo per me. Io non ti odio, ascolta, ti offro la pace per la seconda volta. Ed è così che Francesca Immacolata Sciauqui, classe 1981, pregiudicata vaticana, affila le parole e verga il messaggio all'allora Monsignor Angelo Becciu. Chissà che tipo di rapporti ci sono anche su questo fronte. La politica in sé offre poco, se non tutte le discussioni sui candidati alle amministrative, Toschi, Dompé, Bertolaso e il centrodestra che sta lavorando. Si ipotizza un Guido Bertolaso candidato a Roma, si ipotizza un Franco Baresi candidato a Milano come sindaco di Milano. Chiudo con due storie di giornalisti. La prima riguarda Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, ne parla Libero a pagina 9 e la storia viene ripresa dal Primato Nazionale. Non so effettivamente l'affidabilità della storia, ve la metto là per come la mette Libero. Non uno ma due posti. Quando c'è da far qualcosa Andrea Scanzi si mette d'impegno, e la foto notizia. La foto è della sua BMW in via Montefalco ad Arezzo, che occupa un doppio spazio con tanto di cartello segnalazione a terra riservato ai disabili. Ovviamente è stata oscurata la targa. Dice il veicolo è intestato alla graffiante Pena del Fatto, sempre pronto a cogliere in fallo con le sue reprimende l'universo mondo che è nato ad Arezzo e lì tuttora risiede. E infine la terribile vicenda di Jeffrey Toobin del New Yorker e della CNN. Siamo a pagina 23 del Corriere della Sera, che è stato mandato via, appunto, è un analista legale, è stato licenziato, non verrà più utilizzato. Perché? Perché durante una video chat organizzata dal New Yorker insieme a un emittente della New York Public Radio, a cui anche lui era invitato, a un certo punto era convinto di aver spento la telecamera, non l'aveva fatto ed è stato pescato a masturbarsi. Via, via. GR, ci risentiamo tra poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.